Testimonianze extracristiane sulla persona di Gesù di Nazareth e sulla Chiesa primitiva, di Andrea Nicolotti. Tutte le testimonianze storiche e le reminiscenze su Gesù e sulla Chiesa secondo le fonti non cristiane dei primi 2 secoli. Testo ricavato e adattato per la lettura registrata in audio dal sito www.christianismus.it. Studi sul cristianesimo. Introduzione. Le testimonianze storiche e le reminiscenze sulla persona di Gesù di Nazareth e sui primi cristiani, che si trovano negli scritti di autori non cristiani dei primi 2 secoli dell'era volgare, sono assai poche di fronte all'abbondanza delle fonti cristiane che trattano delle origini del cristianesimo. Tuttavia, ciò non genera stupore nello storico, il quale è ben avvezzo a simili penurie di fonti. Gli scrittori non direttamente interessati a questa nuova fede, infatti, tendono a disinteressarsi di un fenomeno che per i primi tempi viene visto semplicemente come una questione religiosa interna al popolo ebraico. L'attenzione per il fenomeno cristiano nascerà solamente quando esso acquisterà una certa rilevanza sociale tale da farlo balzare innanzi agli occhi di tutti. Per questo motivo vedremo che le prime testimonianze non cristiane entrarono a far parte degli scritti dell'epoca per necessità pratiche o per motivi spesso contingenti. Gli accenni a Gesù e ai suoi seguaci, quando vengono inseriti in opere redatte in questi primi 2 secoli, sono digressioni che hanno la funzione di completare la narrazione di altri avvenimenti storici, come accade in Tacito e Svetonio, o sono parti di libri storici che trattano specificamente della Giudea. È il caso di Giuseppe Flavio. O ancora sono contenuti all'interno di corrispondenza tra il potere romano centrale e le sue ramificazioni provinciali, come quella intercorsa tra Plinio e Adriano. Oppure sono spunti polemici o satirici di pagani, ebrei e filosofi contro i cristiani. Petronio, Trifone, Apuleio, Marco Aurelio, Luciano, Galeno, Epitteto, Eccelso. Pertanto, le notizie storiche più interessanti riguardo al cristianesimo antico andranno soprattutto ricercate tra gli scrittori cristiani. Proponiamo in ordine cronologico queste testimonianze di importanza e valore storico più o meno degno di nota.